Al Jumu'ah, il venerdì. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi il malikil quddusil azizil hakim. Glorifica Allah ciò che è nei cieli e sulla terra, il Re, il Santo, l'Eccelso, il Saggio. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Egli è colui che ha inviato tra gli illetterati un messaggero della loro gente, che recita i suoi versetti, li purifica e insegna loro il libro e la saggezza, anche se in precedenza erano in errore evidente. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. E ad altri che ancora non li hanno raggiunti nella fede. Egli è l'Eccelso, il Saggio. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Questa è la grazia di Allah, egli la concede a chi vuole. Allah è il detentore della grazia immensa. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Coloro cui fu affidata la Torah e che non la osservarono assomigliano all'asino che porta i libri. Quanto è detestabile la similitudine di coloro che tacciano di menzogne i segni di Allah. Allah non guida gli ingiusti. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Di, o voi che praticate il giudaismo, se pretendete di essere gli alleati di Allah ad esclusione degli altri uomini, auguratevi la morte se siete veritieri. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Giammai se l'augureranno a causa di quel che hanno commesso le loro mani. Allah ben conosce gli empi. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم